Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a Crescentino questa sera per riprendere la conversazione con Dario Giordano, che è capo della ricerca e sviluppo di Chemtex, gruppo Mossi e Ghisolfi, che ha progettato il processo chimico alla base dell'impianto di Crescentino, il primo al mondo a produrre su scala industriale bioetanolo di seconda generazione, cioè quello che si ricava dagli scarti agricoli, non dalla parte pregiata della pianta. Buonasera Giordano, bentornato. Buonasera, buonasera. Allora, quello che voi avete fatto è imparare a produrre questi biocombustibili a partire dalla cellulosa e non dagli zuccheri, come si è sempre fatto. Ma questo, ed è quello che cercheremo di spiegare stasera, è solo il primo passo verso quella che potremmo definire la transizione dal barile di petrolio al barile di biomassa. Ecco, sulla strada verso questo obiettivo troviamo un altro protagonista del regno vegetale, la lignina, che forse è la molecola più abbondante in natura, guarda caso, proprio dopo la cellulosa. Allora, che cos'è la lignina? Che cos'ha di speciale? Diciamo la lignina è uno dei componenti delle biomasse lignocellulosiche ed è la parte che non contiene zucchero e che quindi non può essere fermentata nei processi di fermentativi, quindi non può essere trasformata in zucchero. Tuttavia è un componente ampiamente disponibile nella biomassa e che può essere la base per l'apertura di una chimica verde che produca intermedi chimici partendo da questo residuo. Ecco, c'è una parola chiave che i chimici conoscono molto bene, che è aromatici. Che cosa sono gli aromatici? Gli aromatici sono dei prodotti che sono costituiti da un particolare anello chimico e che consentono di ottenere tutta una serie di prodotti ad alte performance. Ecco, il benzene è il più noto di tutti, anche perché è cancerogeno, è quell'anello, diciamo, con 6 atomi di carbonio. Sono delle molecole formate così. Si chiamano aromatiche perché si sente molto forte il loro odore, hanno un odore caratteristico molto forte. No? Ci sono tantissimi composti che sono aromatici ma non hanno alcun effetto nocivo sulla salute dell'uomo, pensiamo al tereftalato eccetera, e sono dei prodotti che vengono utilizzati nella formulazione delle materie plastiche, per esempio, o delle fibre tessili. Per esempio il nylon è basato da derivati di composti aromatici, le bottiglie di PET lo stesso. Quindi diciamo c'è tutta una gamma di prodotti che noi usiamo quotidianamente che hanno alla base i prodotti di derivazione aromatica che normalmente sono una piccola frazione della distillazione del petrolio, no? Ma... Sì, sono circa un 10%. Ah, 10%, ecco. Sì. E invece voi da dove pensate di prenderli? Diciamo che alla stregua di quello che si fa con un barile di petrolio da cui si estraggono le varie frazioni, uno può immaginare la chimica del dopo 2020 come un utilizzo del barile di biomassa, quindi esatto. Estrazione dal barile di biomassa delle varie frazioni. Una di queste frazioni è la frazione che è costituita da aromatici. Formano la lignina, è giusto? La lignina è fatta di aromatici sostanzialmente. Esattamente, è una catena polimerica fatta di aromatici, così come il nylon è una catena polimerica fatta di aromatici. Quindi la cosa interessante è che questo barile di biomassa contiene dei prodotti che sono gli stessi che si ritrovano nel petrolio. Ecco, quindi i primi prodotti che si può immaginare di produrre a partire da questa lignina trasformata, quali saranno? Ovviamente essendo una società che è leader mondiale nella produzione del PET, che è il polimero che si usa per le bottiglie dell'acqua minerale. Esatto, il PET, sì. Il polietilene tereftalato. Esattamente, e quindi noi ci immaginiamo nel giro dei prossimi 5-6 anni di arrivare ad avere bottiglie di PET che siano interamente di derivazione da biomassa. I nostri impianti pilota stanno già funzionando e abbiamo già avuto i primi risultati molto positivi. Il punto è che a un certo punto questo barile di biomassa subite delle prime trasformazioni, dove bisogna tirar fuori dalla biomassa questi reagenti come gli aromatici, tutto il resto della catena di produzione resterebbe più o meno quello di derivazione petrolifera, che è un vantaggio, non bisogna cambiare tutto. Esattamente. Se ho capito bene. Esattamente. Sostituire il petrolio con la biomassa è possibile? Sicuramente pensare tra il 2020 e il 2030 un mondo che non è più solo basato sul petrolio, ma è basato anche sulle biomasse è possibile. Grazie Dario Giordano. La ringrazio, arrivederci.